5 miliardi da tagliare, spese dunque. Questo è il titolo d'apertura questa mattina della stampa che trovate in edicola. Napolitano, possiamo e dobbiamo farcela. In questo lunedì ovviamente i quotidiani in edicola faranno la sintesi di due giorni e quindi troviamo ovunque i temi del discorso del Presidente della Repubblica, ma insomma anche l'attualità delle ultime 48 ore. Dicevo, Napolitano, possiamo e dobbiamo farcela. I leader europei 2012 hanno ancora duro. Allarme dei sindacati, questa sarà senz'altro la priorità di questi primi mesi, non soltanto dell'anno 2012, a rischio migliaia di posti di lavoro. Monti li chiama, intesa in tempi stretti. A centropagina il botti, appunto il tema dei botti, i divieti non fermano gli incidenti. È stata una delle peggior notti di Capodanno del decennio, due morti oltre 500 feriti. Botti, ora basta, serve più rigore, il secolo XIX questa mattina, mentre i sindacati a rischio di tensioni sociali sono l'altro grande soggetto appunto della prima pagina. E tutti i rincari del nuovo anno, ecco, il Sole 24 Ore oggi in edicola fa il punto, racconta voce per voce dove si pagherà di più, quindi un vero e proprio percorso attraverso una serie di speciali, naturalmente i dossier, insomma, per capire tutte quelle novità che entrano in campo con il 2012, un 2012 che è appunto pieno di novità, purtroppo sotto il tema dei rincari, scrive nella prima pagina il Sole 24 Ore. Dalle bollette alle tasse, dal canone TV ai contributi previdenziali, l'anno appena iniziato presenta il conto alle famiglie. Le misure arrivano con le ultime manovre, dovranno segnare il percorso per l'uscita dall'emergenza sui conti pubblici, ma di certo per ora portano agli italiani una raffica di aumenti. I rincari in agenda si dispiegano su vari fronti, la casa con il ritorno del prelievo sulla prima abitazione e con il debutto dell'IMU, le bollette di luce e gas periodicamente agganciate al prezzo delle materie prime, le addizionali IRPEF locali che si faranno sentire direttamente sulla busta paga. Poi ancora l'aumento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e dei collaboratori e infine l'incognita di un nuovo rincaro dell'IVA in calendario a ottobre. Insieme a tante cattive notizie, anche qualche novità positiva: tasse più leggere sui conti correnti e stop ai certificati inutili. Quindi IMU, canone TV, luce e gas, l'IRPEF regionali, l'uso tassato, gli interessi legali, i contributi, il risparmio sono i richiami nella prima pagina del Sole 24 Ore che sfogliato oggi ci racconta appunto in maniera estremamente dettagliata tutte quelle che sono le novità, quello che dobbiamo attenderci in termini di appunto di rincari, ma anche queste iniziative positive. Ecco, sempre un altro tema che peraltro andremo ad approfondire anche con altri quotidiani. E 2012 ne abbiamo parlato molto nelle ultime settimane e il 2012 viene proprio indicato come un anno che vorrebbe essere decisivo nella lotta all'evasione. Infatti il fisco cerca la svolta nella lotta all'evasione, questo sempre dalla prima del Sole 24 Ore, e sicuramente assieme appunto alle preoccupazioni per il lavoro, per l'occupazione, questa potrebbe essere una delle chiavi di questo 2012. Lavoro, l'allarme dei sindacati è invece proprio il titolo scelto questa mattina da Repubblica. Il Premier dice evocare i conflitti sociali non aiuta, coro di consensi intanto per il capo dello Stato e quindi per il discorso di fine anno, solo la Lega lo attacca ed è bufera su Calderoli. Intanto Monti appunto sul fronte del lavoro chiama CGIL, CISL, UIL e UGL, mentre appunto l'occhiello completa con Napolitano che dice ce la faremo, i sacrifici servono per i nostri figli, inutili invece anche per Repubblica i divieti sui botti, sangue a Capodanno, due morti, molti bambini tra i feriti. Naturalmente Oggi l'abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio, tutta la settimana precedente abbiamo parlato del braccio di ferro in corso tra Teheran e gli Stati Uniti. Intanto Teheran sfida gli US e gli Stati Uniti e lancia il missile terra-aria. Crolla intanto la moneta iraniana dopo le sanzioni americane. Ecco qua il giorno, lavoro 300.000 a rischio, qui il giorno fa dei numeri ed è questo il suo titolo d'apertura, appunto 300.000 a rischio, secondo la CGIL i posti in bilico, esploderanno le tensioni sociali e Monti dice intesa ma in fretta, i tempi sono uno degli elementi diciamo che caratterizzano da sempre l'azione di questo governo e a centropagina è proprio carissimo 2012. In basso un titolo che riprende insomma la notizia passata la scorsa settimana sui contratti Eni in Libia di cui abbiamo appunto parlato. Tripoli rivede i contratti Eni ma si salvano gas e petrolio. Abbiamo ricordato che nel corso di questo mese di gennaio ci saranno alcuni appuntamenti molto importanti nei rapporti bilaterali, non solo tra appunto le nuove autorità libiche. Il primo ministro Monti è atteso a fine mese in Libia e chiaramente al centro anche i rapporti diciamo storici e tutto il profilo economico dei contratti petroliferi, ma non solamente, quindi non riguarda solamente l'Eni, anche se ovviamente il suo ruolo è prioritario. Botti, un morto a Roma per Il Messaggero, il quotidiano romano, mostra in prima pagina quello che resta di questo appartamento che appunto devastato dall'interno, dall'esplosione di un petardo, anche se definirlo così fa una certa impressione, un boato e poi il fuoco sembrava il terremoto, altro che petardo, penzola, un Babbo Natale annerito, la ringhiera è deformata, effettivamente si vede nella foto verso l'esterno, anche i panni stesi sembrano chiedere ancora aiuto. E sotto, nella strada transennata dai vigili del fuoco, petardi, botti illegali, inesplosi, vetri, oggetti volati via da casa, sangue. E quel che resta della festa dei grandi diventata un inferno, bambini inclusi, al primo piano di via Gigliotti. Non ho avuto tempo di avere paura, ha raccontato ai medici Stefano, un ragazzino di 13 anni ricoverato al Pertini. Era più forte il dolore delle ferite su tutto il corpo. Su questa appunto tragedia, su questa esplosione devastante sul vero e proprio simbolo tragico del Capodanno, dicevo, il Messaggero di Roma apre questa mattina l'allarme lavoro, ma anche l'intervista al responsabile al numero uno, pardon, dell'Agenzia delle Entrate, Befera, che dice così scopriremo gli evasori. Infatti se c'è uno degli elementi rilanciati, come abbiamo detto poco fa, del 2012, è quella della lotta all'evasione, quindi sarà l'anno della lotta all'evasione fiscale, dura e senza sconti, come chiedono del resto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e chi da sempre paga onestamente le tasse. Una lotta con strumenti sofisticati e innovativi come i controlli sui conti correnti bancari, il confronto sempre più analitico e stringente tra spese realmente sostenute e redditi dichiarati sarà la svolta, una lotta senza quartiere con il pieno sostegno e l'appoggio del governo Monti. Così la sfida è lanciata da Attilio Befera, numero uno dell'Agenzia delle Entrate, che promette, nelle pagine intere, nell'intervista al Messaggero, il massimo impegno per colpire al cuore i furbi e ridare così equità al sistema, portando nelle casse dello Stato risorse sottratte al fisco e quindi al paese. Corriere della Sera, Monti chiama i sindacati. Napolitano spinge sulle riforme ricordando il dopoguerra. Anche nella prima pagina i funerali di Don Verzé, innovatore e spregiudicato, le due facce di Don Verzé questo è uno dei titoli oggi in apertura, che il Corriere dedica anche ai segreti di uno straordinario DiCaprio e all'ultimo lavoro di Clint Eastwood, perfetto nel Louvre di Eastwood, una vera stella del cinema. Insomma, il Corriere incorona definitivamente attraverso i suoi critici cinematografici il ruolo di questo attore, già attor giovane, molto popolare, sempre più diventato una stella di film tutt'altro che leggeri, e di certo non lo è questo, appunto, in cui si racconta, il titolo è J. Edgar, la storia dell'uomo Edgar Hoover, che restò per 48 anni a capo del Federal Bureau of Investigation, quindi l'FBI, con, lo ricordiamo, la regia di Clint Eastwood. Ecco qua, gli ammortizzatori sociali, la riforma degli ammortizzatori sociali è il tema centrale invece dell'intervista che viene richiamata in prima sul Corriere, in questo caso il presidente dell'INPS, Mastrapasqua. Vedremo di approfondire, prima però completiamo con le prime pagine che abbiamo oggi in edicola. Il giornale L'Oro di Napolitano, il giornale diretto da Alessandro Sallusti, così vede appunto il ruolo del capo dello Stato, e dice: il capo dello Stato parla da premier e dice che i sacrifici salvano l'Italia, ma il Quirinale non li fa, nessun taglio nei palazzi della politica, e la pubblica amministrazione non rinuncia alle auto blu e le nasconde. Diciamo subito, scrive Vittorio Feltri questa mattina, che Giorgio Napolitano, diversamente dagli altri anni, stavolta è stato meno retorico, ha usato un linguaggio semplice, ha affrontato i problemi concreti, evitando di spalmare le sue parole su tutto lo scibile politiche. Ma, prosegue più avanti, per andare giù piatti il Quirinale si è sbilanciato a favore del Presidente del Consiglio, suscitando l'impressione di esserne diventato una specie di ufficio stampa e propaganda. Niente di illecito, per carità, ma possiamo dire che è abbastanza irrituale che il garante della Costituzione e dell'Unità Nazionale si trasformi in garante del Premier da lui scelto, dopo averlo nominato senatore a vita, senza nemmeno consultare i partiti e il Parlamento. Questa la linea oggi tratteggiata dal giornale, lo ricordo il titolo, L'Oro di Napolitano, quindi il capo dello Stato parla da premier e dice che i sacrifici salvano l'Italia, ma il Quirinale non li fa. Poi a centropagina invece una grande fotografia di Don Verzé, la morte del prete dei malati, Don Verzé e la sua opera distrutti dai pregiudizi. C'è un lungo articolo firmato da Vittorio Sgarbi, poi alle pagine interne sono numerosi gli interventi. Libero, sobri per forza, le 50 tasse di Monti, entra in vigore il decreto Salva Italia, massacra gli onesti e risparmia casta e parassiti. Sugli aumenti dell'IRPEF le regioni fanno la cresta, ecco quanto dovremo pagare. La foto, in realtà in questo caso è un disegno, al centro di Libero questa mattina invece è dedicato a Vendola, e Vendola il governatore che stanga di più, il comunista che prende ai poveri per restare ricco. C'è un Vendola in versione Paperon de Paperone abbracciato al deposito, appunto quello ovviamente classico di Paperon de Paperone. Ecco, in conclusione, poi naturalmente ripartiamo per gli approfondimenti tra qualche minuto, la Gazzetta dello Sport dedica la sua apertura, una doppia intervista nero-azzurra, rosso-nera, un anno da pazzo, appunto in questo caso l'intervista Pazzini, il derby sarà la molla per l'Inter, dovremo giocarlo come la gara della stagione. Un Ibra da matti invece sull'altro, l'altra faccia di questa prima pagina questa mattina, Tevez va benissimo ma il Milan mi manca, ma al Milan mi manca Cassano, senza di lui io mi sacrifico di più. Per il titolo, dice l'attaccante svedese del Milan, per il titolo non è soltanto lotta a due tra noi e la Juventus. Bene, queste le prime pagine di questa mattina, adesso qualche momento di pausa ma torniamo subito insieme. 7:32 minuti, eccoci ancora qui nel nostro spazio dedicato alla lettura dei quotidiani, ma naturalmente restiamo connessi su quanto accade nel mondo. L'agenzia è stata confermata, una Reuters battuta da Teheran, che conferma che proprio oggi l'Iran testerà il lancio di due missili a lungo raggio durante quella che viene indicato come l'ultimo giorno dell'esercitazione nel Golfo Persico, esercitazione in corso ormai da quasi 10 giorni, che ha come dire, contribuito a mettere ulteriore tensione nei rapporti già storicamente assai complicati, appunto, tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti. Vi ricordate nei giorni scorsi l'invio verso lo stretto di Hormuz di una portaerei americana? Insomma, oggi testeremo il lancio del Qader e del Nur, ha detto la TV di Stato il comandante Mahmoud Moussaoui. Sono diverse le testate che si occupano di questa dell'evoluzione di questa crisi. Dal secolo XIX, in edicola oggi a pagina 8, un'intervista a Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, che dice tra l'altro: chiudere lo stretto di Hormuz sarebbe un autogol clamoroso per l'Iran, Teheran può vendere altrove il suo greggio. Addio America, gendarme del mondo. Anzi, secondo Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, il 2012 vedrà gli Stati Uniti confermarsi in un inedito ruolo di grande destabilizzatore. L'intervista di Paolo Crecchi chiede: l'Iran ha appena annunciato di aver testato la prima barra di uranio fatto in casa, e Gaiani risponde: ce l'ha già detto un mese fa il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E poi l'Iran ha comprato centrifughe in passato, costruito stabilimenti. Insomma, non sembra esserci ombra di dubbio nella risposta degli specialisti, uno dei quali peraltro è stato scoperto dal drone americano abbattuto agli inizi di dicembre, si dice, nella provincia di Qom. Ora, al di là di ogni speculazione politica, il nucleare iraniano può avere valenza civile ma anche militare, ovviamente, e da anni l'Iran sta sviluppando i missili balistici a medio raggio, per esempio il Shabab, che... missili che sono derivati dai nordcoreani Nodong. Certi missili hanno senso solo se hai delle bombe atomiche da metterci sopra. Insomma, se l'Occidente deciderà l'embargo sul nostro petrolio, ha detto Teheran, dallo stretto di Hormuz non ne uscirà più una goccia, punto e basta. E su questo punto Gaiani, come vi ho anticipato, dice: intorno alla crisi dello stretto si è sollevato un gran polverone perché c'è una gran voglia di mostrare i muscoli. In realtà l'Iran non avrebbe alcun problema ad aggirare l'embargo. In che modo? Pensate che Singapore, l'Afghanistan o la Birmania farebbero difficoltà ad acquistare il petrolio iraniano? No. E quindi chiudere Hormuz sarebbe un autogol micidiale. Gli iraniani si attirerebbero anche l'ostilità dei paesi del Golfo, che per loro sono nemici più degli stessi americani. Insomma, non è prevedibile dunque un'escalation di tipo militare, un nuovo Iraq in qualche modo. Credo che gli Stati Uniti abbiano definitivamente cambiato strategia con Obama, tanto la lobby delle armi prospera lo stesso. Questo sul fronte, appunto, della tensione in Iran, sul secolo XIX, che tra l'altro in apertura racconta di uno scontro interno a Israele. Gli ultraortodossi sfidano i moderati con la stella dell'Olocausto. Sono riapparse le uniformi dei lager a Gerusalemme. Un migliaio di manifestanti ultraortodossi ha provocatoriamente richiamato l'Olocausto. È l'ultimo capitolo del conflitto interno a Israele tra la minoranza estremista e la maggioranza religiosa, tradizionalista, moderata o laica. Allora, gli ultraortodossi in piazza, i laici israeliani dicono sono come i nazisti. Subito una rappresaglia dei moderati con gruppi di donne che vanno a sedersi sugli autobus proibiti dagli integralisti. E qui richiama appunto uno dei, direi, classici di questo confronto interno tra appunto tra ebrei israeliani, laddove gli ultraortodossi tradizionalmente chiedono e cercano di impedire alle donne di sedersi in alcune parti dei trasporti pubblici. Ok, dalle pagine internazionali ritorniamo invece da noi, ritorniamo alla prima del Sole 24 Ore. Vi ho detto questa mattina dedicata con ampi approfondimenti speciali sui rincari, ma leggiamo anche un qualche passaggio del Fondo di questa mattina, firma di Carlo Bastasin sulla crisi dell'euro, ognuno faccia la sua parte. Insomma, in questo compleanno, questo decennale dell'euro, ovviamente non poteva che essere più caldo su questa materia. Il mese di gennaio rischia di essere davvero un momento critico, davvero importante, e non è retorica, perché ve lo ricordo, tra il 23 e il 31 sono previsti due importanti appuntamenti, quello l'ultimo del mese e quello a fine mese si prevede il vertice, ma un vertice che dovrà trovare la quadra di un accordo a 17, appunto, sulla nuova politica fiscale, e che sostanzialmente rappresenterà un po' la misura della solidità possibile e del futuro della costruzione europea. Carlo Bastasin scrive: è giunto per l'Italia il momento di dare alla crisi europea la dimensione politica che avrebbe dovuto avere fin dal suo inizio nel 2008. L'assenza di un confronto democratico tra i governi e i parlamenti dei paesi dell'euroarea sta infatti pregiudicando la corretta ricognizione delle cause che hanno portato i 17 paesi in una condizione di pericolo. L'intero aggiustamento pesa sulle spalle dell'Italia, mentre l'uscita dalla crisi richiede impegno di tutti i paesi. In assenza del confronto trasparente sulle ragioni della crisi, la storia viene scritta da paesi, in primo luogo la Germania, che hanno un ruolo di forza relativa. Sono paesi creditori che hanno accumulato risparmi e dai quali si attende provengano le garanzie finanziarie che aiutino i paesi più deboli a superare la diffidenza dei mercati. La storia della crisi raccontata da questi paesi è quella di un problema che nasce dall'indisciplina fiscale dei paesi della periferia. Nella logica di Berlino, il fatto che l'Italia metta al sicuro i propri conti pubblici è quindi la precondizione per la soluzione dell'emergenza. La crisi dell'euroarea ha invece una natura complessa. È certamente una crisi fiscale in Grecia, una crisi di competitività nei paesi della periferia, una crisi bancaria in Germania, Francia, Irlanda, Olanda, Spagna, una crisi di credibilità nazionale ed europea, infine una crisi di carattere istituzionale nell'insieme dell'euroarea. Purtroppo una descrizione molto parziale dell'origine della debolezza dell'euro implica che la soluzione sia anch'essa parziale e insufficiente. La necessità di risolvere i problemi di finanza pubblica italiana resta inalterata, perché anche se le cause della crisi non sono fiscali, tutte le soluzioni hanno una natura fiscale, implicano infatti un trasferimento di risorse dai paesi creditori a quelli debitori. Ecco, una parte dunque del Fondo di questa mattina, firmato da Carlo Bastasin sul Sole 24 Ore. Mi piace completarlo con quello che è invece il richiamo al commento a firma di Fabrizio Galimberti, perché come dire, si parla ovviamente di Europa, ma il ruolo degli Stati Uniti, di cui abbiamo parlato sul fronte della politica estera, è centrale anche per quanto riguarda la crisi del debito, sia nelle sue cause ovviamente che nella sua soluzione. Così scrive Fabrizio Galimberti quando dice che siamo costretti a contare sugli USA. La crisi dei debiti sovrani ha portato il pianeta sull'orlo della recessione. Possiamo pensare che nel 2012 la crisi sia destinata a lasciare il posto alla crescita? A parte le chance che giungono dai paesi emergenti, le speranze dell'uscita della crisi sono tutte puntate sull'America. L'economia degli Stati Uniti, infatti, sta ricominciando a crescere e un ritorno allo sviluppo americano potrebbe sollevare la cappa di sfiducia che è calata in Europa. Nel 2008-2009 la causa prima era stata la finanza privata, nel 2011 ancora la finanza, ma quella pubblica. C'è da sperare che nel 2012 le teste e le code della crisi lascino il posto alla crescita. E Galimberti scrive: non c'è bisogno del beneficio di inventario per diffidare dell'eredità che ci ha lasciato il 2011. In un certo senso, questa eredità punta a una situazione ancora più difficile di quella che rigava i giorni bui della Grande Depressione. Allora le economie rischiavano di avvitarsi, ma nella Santa Barbara della politica economica c'erano molte munizioni. Il pronto soccorso della politica monetaria e dei bilanci pubblici fu tempestivo e massiccio. Se non evitò il più grosso inciampo del dopoguerra, almeno evitò che la recessione si trasformasse in depressione, come invece accadde negli anni 30. Ma oggi, nella sala d'armi della maggior parte dei governi, le polveri sono bagnate. La parola d'ordine è quella di ridurre il deficit, non certo di aumentarli. E se ci sarà un effetto dei bilanci pubblici sull'economia nel 2012, questo sarà più restrittivo che espansivo. Insomma, la locomotiva rilento, le stime danno un forte rallentamento della domanda interna tedesca. Esattamente il contrario di quel che ci vorrebbe. Così scrive oggi, richiamato in prima sul Sole 24 Ore, Fabrizio Galimberti, dunque costretti a contare sugli Stati Uniti. Bene, 7:44 minuti tra 5 secondi precisi, e dunque sentiamo insieme come vanno le cose sulle autostrade. Prima abbiamo sentito c'era qualche problema su una delle grandi arterie di traffico italiana, e poi torniamo per l'ultima parte della rassegna stampa. Eccoci qua, 7:45 minuti in questo momento, tra qualche istante torniamo in Italia. Prima però rifacciamo un'altra puntata fuori dal nostro paese. Due segnalazioni: da una parte l'inizio anno a Fukushima, quindi il Giappone, ovviamente un nome che associamo a quello del disastroso terremoto con successivo disastroso impatto sulla centrale nucleare. Bene, sciare a Fukushima col contatore Geiger al collo, questo è il titolo di un articolo del Corriere della Sera, che racconta come gli appassionati siano tornati sulle cime della prefettura colpita dal disastro dell'11 marzo. Lo fanno però muniti di strumenti portatili per misurare le radiazioni. Ecco, i giapponesi, che sono grandi appassionati di gadget tecnologici, anche molto spesso sono stati davvero le avanguardie di tecnologie poi diffuse in varie forme in tutto il mondo, hanno questo gadget drammatico per chi ha scelto di sciare in questa località giapponese, peraltro appunto dove leggiamo una grande nevicata, le condizioni delle piste sono perfette, e a quasi un anno dal terremoto tsunami dell'11 marzo qui normalità vuol dire... È una parola che va ancora pronunciata con prudenza. Tuttavia, con spirito autenticamente nipponico, i turisti sono tornati a frequentare le zone adiacenti, la zona di esclusione, ovvero i 20 chilometri di raggio intorno ai reattori di Daiichi sulla costa. I numeri parlano di presenze durante le vacanze invernali al 70%. Rispetto ai dati 2010-2011, prima del disastro. Per invogliare i molti amanti della neve, albergatori e funzionari si sono sbizzarriti nel garantire la rilevazione giornaliera della quantità di radiazione sulle piste, non sole. Il turismo ha subito un colpo durissimo dall'incidente dell'impianto nucleare, dice il portavoce locale, per cui il governo e le autorità locali fanno di tutto per tenere sotto controllo la situazione. Questo significa test sugli alimenti e monitoraggio del livello di radiazione ambientale riportato sui siti delle comunità montane. Insomma, tutti diventano strumenti di controllo attraverso dei contatori che si indossano con lo ski pass, e così si costruisce anche e si cerca di ricostruire quella rete di confidenza che per noi, come dire, italiani è sempre stata, credo, un po' difficile da capire. Ce l'hanno raccontato alcuni ospiti, all'inizio è stato anche difficile cogliere quanto per i giapponesi sia stata veramente violata la rete di fiducia che loro tradizionalmente hanno nell'autorità, e che la tragedia appunto del terremoto, tsunami e perdite radioattive ha veramente intaccato in maniera molto significativa. Ed ecco allora che i giapponesi in qualche modo si organizzano con il loro consueto pragmatismo. Dicevo, due temi di esteri, l'altro che ci porta invece al film su alla biografia di Edgar Hoover, di cui abbiamo accennato nei titoli d'apertura oggi sul Corriere della Sera. Eastwood, uno sguardo cupo sui segreti e le bugie dell'America, DiCaprio straordinario nel ruolo del mitico direttore. Paolo Mereghetti, appunto, come vi ho detto, in qualche modo sottoscrive la prestazione dell'attore, e oltre che del regista, e dice: la figura di Hoover a dargli un volto, cioè Leonardo DiCaprio, convincente quando fa le sue prime sparate anticomuniste non ancora trentenne, e straordinario quando una squadra di esperti lo invecchiano di 50 anni. In entrambe queste età l'attore americano riesce a restituire la durezza e a volte l'impenetrabilità di un carattere fuori dall'ordinario. Non c'erano compromessi nella vita di Hoover, ma nemmeno c'erano vere verità. Erano troppo evidenti per essere anche autentiche, e tutto il film racconta questa ambiguità, a volte comprensivo verso un personaggio che sicuramente non era un galantuomo, a volte estremamente diretto e scoperto. Insomma, un film importante di un grande regista e con una prestazione da grande attore che viene ampiamente sottolineata. 7:49 minuti, abbiamo ancora 6 minuti insieme. Parliamo invece di Don Verzé, dei suoi funerali. Vi ricordo i titoli di oggi a lui dedicati. Molto forti sono quelli del Giornale, che dice: Don Verzé, la sua opera distrutta dai pregiudizi. Naturalmente i racconti sono molteplici. Per Aldo Cazzullo, diseredato dal padre, creò un impero, il prete, con il mito della longevità. C'è un racconto che è un racconto anche di storia italiana, di un Luigi Verzé che, scrive Cazzullo, è stato molto amato e molto odiato. Fin da piccolo il padre possidente veneto lo adorava, ma lo diseredò quando seppe che sarebbe diventato sacerdote. Poi da arcivescovo di Milano, Montini cercò di fermarlo, e Don Verzé confessò di aver pregato perché non diventasse papa. A Borrelli inviò, al magistrato ovviamente, inviò una lettera malaugurante che il magistrato gli rispedì indietro, ma lo scontro più duro fu con Rosi Bindi, che da ministro della sanità gli vietò lo sbarco a Roma. Lui così rievocava l'episodio, rivolgendosi come Don Camillo direttamente al Padre Eterno. Dio mio, diceva, tu che mi hai tentato, come hai fatto con Abramo, chiedendogli di sacrificare il suo figlio prediletto, ma tu a me non hai mandato l'angelo a fermarmi il braccio, a me hai mandato Rosi Bindi, che è stata solo il magatello di ben altri poteri, di Roma ladrona, perché tale Roma è, anche se solo Bossi ha il coraggio di dirlo. D'altra parte, neppure il Vaticano lo amava, in particolare per le sue posizioni sulla ricerca scientifica, non ortodosse, appunto, non allineate con il pensiero vaticano. Alla vigilia del referendum del 2005, Don Verzé si schierò in difesa della fecondazione assistita e del ricorso agli embrioni umani per trovare nuove cure, a patto di non uccidere e non ferirli, diceva. Mentre il cardinale Ruini faceva campagna per l'astensione, lui sosteneva che tutti hanno il diritto di avere figli. Qualcuno può rinunziarvi, come ho fatto io, diceva, nessuno però può impedirlo ad altri. Insomma, Don Verzé, conclude Cazzullo, aveva fondato anche una sua personale teologia. Decenni di frequentazione della morte mi hanno convinto che l'uomo non può stare senza nessuna delle tre parti che lo compongono, corpo, psiche e spirito, per cui al momento della morte Dio ricrea il nostro corpo immediatamente, senza attendere la fine dei tempi. E dove sono i nuovi corpi dei morti? Questo non lo so, però so per certo che Dio non ha creato la morte. Pensiero di una figura che, come si suol dire in questi casi, controversa nelle sue complessità, una figura che il Giornale invece già nei giorni scorsi, attraverso una serie di articoli di Vittorio Feltri, ha difeso strenuamente, non solo il giornale, peraltro molti anche interlocutori, e oggi il titolo è esplicito: fango, falsi moralismi, ecco cosa davvero l'ha portato alla morte. Contro di lui anche la persecuzione dei giudici, un altro uomo trasformato in mostro, come accadde a Tortora e Lombardini. Questa la posizione, insomma, la visione di questa scomparsa, 91 anni, fazende, ricatti, jet privati, i misteri che lascia Don Verzé, quindi altro approccio. Oggi su Repubblica, la cupola da 50 milioni di euro che svetta sul gineceo berlusconiano dell'Olgettina, con le pettorute del Bunga Bunga, il jet privato, le ville in giro per il mondo, le fazende brasiliane, i festini, la religione come paravento etico, gli affari, la politica, i ricatti, le tangenti, la camorra, i servizi segreti. Nulla si fa mancare il romanzo di Don Verzé, il catto satrapo per decenni adorato beniamino della Pia e corriva borghesia milanese. Così su Repubblica, queste sono solo le primissime righe dell'intervento che troviamo appunto a firma di Alberto Statera. Bene, siamo arrivati quasi alla conclusione. Vi voglio segnalare solamente, più tardi parleremo di nuovo appunto dei botti e di questo Natale. Vi ricordo il Messaggero, il quotidiano di Roma, oggi apre sul morto romano. Botti, un morto a Roma, esplosione in appartamento, feriti tre bambini, ma naturalmente sono molte le cronache di questa notte di, che doveva essere appunto particolarmente controllata, non lo è stata. Non sono bastati gli avvertimenti, non sono bastati i sequestri, in particolare a Roma sono stati importanti, non è bastata una mano amputata da un petardo esploso nella periferia già nel pomeriggio di San Silvestro. E così il Messaggero scrive: un morto e 72 feriti, tra cui due bambini che rischiano di perdere gli occhi, sono il tributo che la capitale paga al delirio dei botti di Capodanno. Per la città è il bilancio più pesante del recente passato, quasi che centinaia di persone, accendendo fuochi d'artificio fuori legge e perciò più dirompenti, volessero a ogni costo liberarsi di qualche cosa, chissà di cosa. E insomma, cercheremo tra poco, tra circa una mezz'ora, di fare il punto con chi invece ha dedicato la notte di San Silvestro a lavorare per cercare appunto di soccorrere, piuttosto che impedire o comunque contenere i danni di questa parte davvero di follia, perché quando leggeremo e sentiremo appunto che tipo di esplosivi sono stati usati, di altro non si può parlare. Intanto siamo arrivati alla conclusione di questa parte, è tempo di sentire gli aggiornamenti di GR24. Noi ci sentiamo tra 25 minuti circa, più tardi.